Check one two, mic check one two, mic check one two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Eccoci qui, siamo pronti dalla Swing House di Renzo Arbore per chiudere questa prima settimana di programmazione del nostro Soundcheck. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo, buon pomeriggio a Renzo Arbore. Buon pomeriggio a tutti voi di Radio 24. Ah, mi piace, questa è la versione internazionale. La versione internazionale, perché sto per andare a New York e quindi sto allenando con l'inglese. A proposito, ho ricevuto molte mail di amici che mi chiedevano: ma dove si esibisce Renzo a New York, quando lo fa il concerto? Perché tu sai che fra musicisti non è un concerto, abbiamo è una sua uno showreel, hai detto, è però sempre un'esibizione. Che cosa farai esattamente? Non lo so, è il giorno 14 ottobre a Italy, lì a Union Square, vicino al Flatiron Building. C'è questa soirée dove vengono presentati. C'è un biglietto, si entra così? Non lo so, è proprio non è una cosa, è una diavoleria inventata dal proprietario di Farinetti di Italy, eccetera, che si è innamorato di un mio disco insieme con una casa discografica importantissima americana, un disco di canzoni italiane in americano. Quindi è la prima volta che canzoni italiane vengono cantate in americano o in inglese. Sono ballad non napoletane, tranne una che è Anima e Core. Però non sarà un concerto dell'orchestra italiana. No, diciamo, non è un concerto dell'orchestra italiana. Con l'orchestra italiana ho appena concluso una grande tournée, adesso poi la riprenderò a novembre. Allora, se tu sei con me, Io vorrei dare il via a questo appuntamento suonando qualcosa di molto particolare, qualcosa dove non viene fuori proprio il senso dello swing del maestro Arbore, ma un altro senso, quello che io definisco il quinto senso della musica e dello spettacolo, ovvero il senso dello humor e dello show. E qui, discograficamente parlando, viene fuori al 100%. Io, in quale delle canzoni, scusa? In sé, se... in un brano intitolato Se tu sei con me. No, sì, e perché no. Quello? Ma no, l'ho scelto con lo swing non ha niente a che lo fare. Lo so che tu un po' ti vergogni con questo pezzo, ma io invece mi diverto molto, e proprio ieri sera ascoltandolo mi sono ammazzato dalle risate, perché si sente questo andazzo bandistico più che da orchestra. Ma quello è un gioco che noi stavamo facendo in studio di registrazione mentre registravamo il disco americano, seriamente. E naturalmente io cominciai a fare questa cosa un po' pugliese, sentì questo suono un po' e cominciai a parlare in pugliese, cosa che faccio raramente, ma si sente dalla pronuncia di sei, se tu sei con me, ogni cosa più bella. Lo anticipo, ma poi si scoprirà dopo, tu interpreti nella canzone il ruolo... Ma è venuto mentre lo stavamo facendo, io ho improvvisato tutto. Cioè, ma tu fai Don Paolo. Sei tu Don sì, Paolo. A un certo punto ho capito che stava venendo fuori il suono di una processione del sud e quindi piano piano l'ho fatta diventare una processione, ho fatto cenno ai musicisti di fare il suono della processione, l'hanno fatto subito, qualcuno anche ride e sbaglia le note, naturalmente il basso tuba, e piano piano poi ho capito che diventavo un prete che guidava la processione con questo inno alla Madonna che se tu sei con me ogni cosa più bella. Noi stiamo parlando, intanto il brano sta prendendo forma, però voglio dire, quanto sei legato alla tua terra, alla tua Puglia, al suo cibo e agli amici pugliesi? Diciamo che sono legato moltissimo al suono delle bande, perché io quando dal mio balcone del terzo piano vedevo i ragazzini che andavano dietro alla banda, volevo essere uno di quelli, e mia madre e mio papà non me lo permettevano perché quelli erano secondo loro Monelli. Io volevo essere Monello, forse lo sono diventato e sono rimasto Monello nell'animo. E allora ascoltiamo che cosa succede qui con la banda Renzo Arbore in questa processione tutta pugliese qui a Radio 24. Adesso andiamo finalmente tutti in dire. Tu sei con me, tutti insieme. Ogni cosa di Trani? Ogni cosa più bella mappa. Dove sta? Eccoli quel di Trani, perché non canta? Tu sei con me. Se tu sei con me, quel di Trani. Ogni cosa più bella. Se tu sei con me, quelli di Trani, cantate ogni cosa più bella, bella ma va. Orchestra. Se tu sei con me, oh Madonna mia santa, Gesù Cristo, Sant'Anna e Maria, fate cantare quelli di Trani. Guarda, mi fa impazzire, è una via di mezzo fra Frank Zappa e John Belushi questa cosa. È una follia, vabbè. No, ma come è depositato alla SIAE questo pezzo? Io non lo so perché non mi occupo di questo, penso come se tu sei con me, che non è certo depositato come una mia canzone, perché è un brano che esisteva, di questi che si usa nella musica popolare, eccetera, no? E quindi è stata un'elaborazione totalmente improvvisata. Credo che sia veramente stato il pezzo più improvvisato nella storia della musica popolare e soprattutto del tuo repertorio. Del mio però repertorio. Vedi, la banda pugliese ci porta a un altro tipo di banda o di marching band, perché fra pochissimo partiremo con Nicholas Payton, quindi il salto lo facciamo direttamente a New Orleans, città che tu ami, conosci molto bene e pare che ti abbiano anche dato le chiavi della città di New Orleans. Sì, sono cittadino onorario di questa città di New Orleans. Voglio anticipare una cosa: abbiamo fatto con Riccardo Di Blasi, un regista scomparso che non c'è più, un programma di 120 minuti sulle origini italiane del jazz, girato a New Orleans, a Chicago, a New York, a Sala Paruta e a Palermo, perché le origini italiane del jazz sono state disconosciute o misconosciute, soprattutto non tanto disconosciute dagli americani, ma sono notevolissime perché il primo disco di jazz è stato fatto da un italiano, di jazz non italiano, di jazz americano, che si chiamava Nick La Rocca. Su questa storia noi abbiamo riscoperto tutte le origini italiane del jazz e quindi a dicembre trasmetteremo su Rai 2 questa bellissima storia delle origini italiane del jazz. Allora, un regalo per te fra pochissimo, una versione di Blues in the Night con la tromba e la super band guidata dal trombettista Nicholas Payton, con special guest Dr. John e Diane Reeves qui a Radio 24 al nostro soundcheck. Told me when I was in deep pain, my mama done told me, son, down in the sweet talk and give it a big eye. But when the sweet talk is done, a woman's too late, a worry something, a need to send a blue in the night. Sound di New Orleans in questa versione di Blues in the Night per la tromba strepitosa di Nicholas Payton, da un album dedicato dal grande musicista contemporaneo invece al veterano del jazz come Louis Armstrong, album intitolato infatti Dear Louis con Dr. John e Diane Reeves. Allora, quanto sei affezionato, Renzo, alla città di New Orleans? Che cos'ha di particolare, di magico questo luogo? È una terra promessa per noi appassionati di jazz. Anche se è una città diventata molto turistica, però non si può dimenticare che lì è stato inventato il jazz. Arrivavano i neri dal Senegal, dall'isola di Dorè, arrivavano i bianchi dall'Italia, dalla Sicilia soprattutto, arrivavano naturalmente i canadesi, i francesi, che erano già lì perché la Nouvelle Orléans è una città francese, quindi c'è la musica di tutto il mondo nel jazz. E poi hanno improvvisato, perché si trovavano la domenica in questa piazza che si chiamava Congo Square e che adesso si chiama Armstrong Park, e suonavano tutti insieme, così è nato il jazz, grossolanamente così è nato il jazz. Ecco, quindi una musica bastarda come sono io. Il jazz è nato e poi si è sviluppato per colpa di alcune etnie, ovvero i neri africani, gli italiani, gli irlandesi e gli ebrei. Certo, certo. Poi sono arrivati tutti gli altri. Certo, e naturalmente è la musica più libera del mondo, perché rispetto a tutte le altre musiche è la musica che ha celebrato come nessun'altra l'improvvisazione, donde il fatto che io credo in questo modo di fare spettacolo, improvvisando come stiamo facendo adesso io e te. Ecco, e per improvvisare la prima cosa che bisogna fare è imparare il giro di blues, perché certo. Se non si impara il giro di blues, poi senz'altro non puoi suonare neanche rock and roll sono le fondamenta. Allora, parlando di blues e passando dal Blues in the Night di Nicholas Payton, Dr. John e Diane Reeves, a un altro blues scritto da Quincy Jones e Lionel Richie per il film Il colore viola, e qui interpretato questo brano dal titolo Miss Sally's Blues, brano meraviglioso, da un'altra signora di colore chiamata Molly Johnson. Non è famosissima Molly Johnson, però è una veterana. Quando sale sul palco e apre bocca, ti attacca le pareti. Sì, sì, non è più Molly, è proprio tosta. Ottimo, Molly Johnson. We're two of a kind, so sister, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing about singing the blues, but oh sister, have I got news for you, I'm something. I hope you think that you're something too. The sun's going down. Oh, but trust me, no low life's gonna run me around. So let me tell you something, sister. Remember your name, no twister. Gonna steal your stuff away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time. Eccoci qui operativi sempre dalla Swing House di Renzo Arbore, ancora per pochi minuti Renzo, poi ci lasciamo, chissà quando ci rivediamo, spero presto, non potrò essere con te a New York il 14 ottobre, perché il 14 ottobre è il giorno del mio compleanno e devo festeggiare con mia figlia. Auguri, va bene, grazie. Però una bottiglia di spumante italiano. Grazie, fallo direttamente dal palco e salutami Dado Moroni e tutti gli altri colleghi che suoneranno con te. E visto che parliamo in questa settimana, abbiamo ascoltato molta musica, abbiamo parlato di swing, abbiamo parlato di blues, abbiamo ascoltato tanti protagonisti della passata generazione ma anche di quella contemporanea, io vorrei ricordare agli amici che tu sei il presidente della Fondazione Umbria Jazz, dell'Associazione Umbria Jazz. Sì, diretta da Carlo Pagnotta, naturalmente. Il direttore artistico resta sempre Carlo Pagnotta, che salutiamo e che prima o poi incontrerò proprio per parlare di musica e del suo bellissimo festival. Lui ha compiuto 80 anni. Umbria Jazz è senz'altro uno dei festival più rappresentativi del nostro paese e uno dei festival jazz più importanti del mondo, perché rispetta la tradizione del jazz e porta sempre alcune novità. Un paio di anni fa la novità era un signore giovanissimo che arrivava da New Orleans chiamato Trombone Shorty. Trombone Shorty mi ha sorpreso moltissimo, perché è proprio il jazz che io amo, cioè quello che sposa la tradizione, il jazz vecchio o antico o tradizionale, tutta la musica di New Orleans, diciamo, con la modernità, con oggi, con la musica di oggi. E quindi Trombone Shorty era una musica comunicativa, straordinariamente comunicativa. E devo dire che c'era un'edizione che ho sentito da lui di Sunny Side of the Street. Oh, meravigliosa, meravigliosa. Ecco. Ricordo, eravamo insieme al concerto e ricordo che fece una nota lunghissima utilizzando la respirazione circolare, che è quella che fanno gli strumentisti, i fiatisti, no? Sì. Una cosa sconvolgente, veramente un grande talento. Un grandissimo talento nuovo, ma del resto è la missione di Umbria Jazz, soprattutto nell'edizione invernale, che vi invito a vedere, quella Orvieto, si chiama Orvieto Jazz Winter, che appunto ha la missione di proporre anche dei personaggi nuovi, o perlomeno ha scoperto tanti personaggi e del jazz italiano e del jazz internazionale, uno per tutti, Brad Mehldau. Allora, presentiamo Trombone Shorty qui in Something Beautiful, dal primo album di questo ragazzo strepitoso, e l'album si intitola Becca Town. Can you show me something beautiful? Can you show me something beautiful? Show me something beautiful. Beautiful. Show me something beautiful. Do you feel temperatures rising? Or do you see flashes of lightning? So bright and late. Do you know who would love to love you? I do. Can you let your worried mind move? Can you show me something beautiful? Beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Beautiful. Show me something beautiful. Do you see the colors changing? Rearranging, amazing. Do you know who knows how to love you? I do. Can you feel the things that I do? When the world's hot and love, and it's faded and cold, when the world has grown dull, can you show me something beautiful? Beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. E allora, Renzo, ci salutiamo. Dopo Trombone Shorty ci salutiamo e ti voglio salutare musicalmente parlando con The Godfather of Soul, perché Godfather of Soul, il nostro James Brown, che noi abbiamo incontrato più volte, che lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo intervistato, sarà in parte protagonista della prossima settimana, una settimana dedicata ai suoni contemporanei, quindi parlando di funk, contemporary, R&B, non si può non partire da James Brown. Guarda, tu devi farmi un regalo, siccome siccome noi ci abbiamo faticato, io e Boncompagni, a imporre in Italia il rhythm and blues, che adesso si chiama R&B, sì. Ma quando arrivò c'erano i Beatles, i Rolling Stones e tutta la musica inglese, però arrivarono Otis Redding, Aretha Franklin, Four Tops, James Brown, Joe Tex, tutti gli altri, Arthur Conley, tutti gli altri, e noi imponemmo questa musica fino a far diventare la hit parade italiana più nera di quella di Memphis, che era, mi ricordo, presentata da Lelio Luttazzi, la hit parade. E allora cosa vuoi che faccia? Appunto, rivendicare il fatto che sono stato anche un padrino del rhythm and blues, proprio perché mi innamorai di I Got You, di un certo James Brown, primo brano di James Brown. Allora, noi ci risentiamo lunedì qui su Radio 24 per il soundcheck. Grazie Renzo, sei stato gentilissimo. Grazie a voi e grazie al pubblico di Radio 24, che spero abbia apprezzato la settimana swing di Gigi Telesforo e del sottoscritto. James Brown, Give It Up or Turn It Loose. Check. Il suono della musica.